Allora, la situazione è che siamo in massa seduti per terra davanti all'ingresso principale, siamo chiusi da due o più, quattro in tutto, ne vedo da qui, camionette sia dall'ingresso, dall'ingresso a destra che da sinistra, e stanno cercando di forzare le altre entrate, in particolare quella di Santo Stefano, e per ora abbiamo rallentato insomma l'ingresso, ma non si sa. Nel mentre stanno anche cercando di sgomberare Crash. Ecco, questo appunto è una notizia che abbiamo cercato di dare e di verificare. Gli attivisti di Crash ci stanno dicendo, ci hanno detto che stanno andando là per verificare se effettivamente è vero, e comunque cercheremo di collegarci con loro fra poco. In ogni caso, lì davanti la situazione è tranquilla? Sì, è tranquilla, certo, anche se un altro passo e caricano, ci hanno detto, nel senso che comunque siamo seduti, stiamo facendo resistenza passiva, per ora qui non si muove nulla, aspettiamo, attendiamo. Quindi oltre agli agenti che bloccano gli accessi da via Borgolocchi e da piazza del Baraccano su La Ba, ci sono anche altri agenti delle forze dell'ordine a pochi passi da voi? Esatto, a pochi passi da noi. Esattamente. Ovviamente in tenuta antisommossa, con i caschi, sì, eccetera. Esatto. Ok, e sperando che ovviamente la situazione non degeneri, cercheremo di... Sì, dimmi. Esatto, ora stiamo capendo, cercando... Aspetta. Probabilmente sono riuscita a entrare dall'ingresso, l'accesso di Santo Stefano.